allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come ti sbagli, essendo giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. Diciamo che ne stanno venendo a mancare molti e noi gli dedichiamo trasmissioni su trasmissioni, ma a breve faremo trasmissioni differenti, con ospiti, con cose nuove. Oggi ci focalizzeremo su un chitarrista italiano, un personaggio degli anni 60-70. Sì, non avremmo voluto fare un'altra puntata di un omaggio a un grande che ci ha lasciato lo scorso 18 ottobre. Parliamo di Franco Cerri, non soltanto il chitarrista italiano più popolare e autorevole, ma anche uno degli stilisti più importanti del mondo jazzistico europeo. Un mondo nel quale i grandi chitarristi non sono certo mancati. Allora, in barba al quarto d'ora accademico, oggi abbiamo cominciato alle 15.59, attenzione, attenzione. Ma Franco lo merita, un grande classe, grande intelligenza, grande ironia, facevano di lui un personaggio davvero unico nel suo genere. Nel 2013 è uscita la sua autobiografia che si intitolava appunto Sarò Franco e iniziava così: mi chiamo Franco Cerri e faccio del jazz con la chitarra. Suono la chitarra perché ne sono rimasto affascinato fin da piccolo. Mi piace la forma, sinuosa, elegante, qualcosa di molto vicino al corpo femminile. Ma soprattutto il suono mi ha fatto impazzire. E allora cominciamo subito a ascoltarci un suo brano. Questa è la sua Bassezza. Circondato di virtuosi, abbiamo sentito il flauto a mo' di pifferaio magico, il sax. Eh sì, di Franco Cerri possiamo dire che è il classico esempio di un artista che si costruisce una tecnica strumentale non in senso astratto, ma sulla base delle proprie necessità espressive. Lui che nasce come autentico autodidatta. E Franco Cerri nasce a Milano il 29 gennaio del 1926 e riceve la sua prima chitarra abbastanza tardi, in regalo dal padre all'età di 17 anni. E così, durante la Seconda Guerra Mondiale inizia ad esibirsi in spettacoli per i lavoratori nel dopolavoro, e la svolta arriverà nel 1945 con l'ingresso nell'orchestra di Gorny Kramer, a cui viene presentato dai componenti del quartetto Cetra. Così possiamo dire che inizia la sua carriera professionale nel 1949, lavora con Django Reinhardt, la sua prima vera influenza chitarristica, e poi negli anni 50 collabora come sideman con i grandi maestri del jazz di passaggio in Italia, da Chet Baker a Jerry Mulligan, da Billie Holiday a Lee Konitz. Un po' tutti passavano per la chitarra e spesso anche il contrabbasso. Stefano Cerri suonava il contrabbasso quando mancava il contrabbassista e lui cambiava con agilità il proprio strumento. Diciamo che erano gli anni d'oro di questa musica e anche dei concerti live, era il dopoguerra, quindi si iniziava la ricostruzione e si ricominciava anche a vivere con la musica, con gli spettacoli. Esattamente, sono gli anni d'oro anche del primo jazz italiano, che aveva veramente grande qualità. Noi di questo periodo abbiamo scelto un disco realizzato da Chet Baker e inciso a Milano nell'ottobre del 1959. Con il trombettista americano c'è anche Renato Sellani al piano, Gene Victor alla batteria, Glauco Masetti al sax contralto, Gianni Basso al sax tenore, e appunto Franco Cerri, qui è scritto Franco Cerri con la S, male, al contrabbasso. Sì, di Becker abbiamo fatto numerose puntate parlando dei suoi viaggi in Italia, della sua detenzione, insomma di tutti i vari vizi, stravizi e ultravizi. Questi erano un po' i primi anni del grande jazz italiano, e noi iniziamo con la traccia d'apertura di questo Chet Baker in Milan, Lady Bird. We'll be right back. sì, erano proprio gli anni d'oro, la spensieratezza, la voglia di suonare, la voglia di fare cose originali, di fare cose nuove, di creare comunque. E sì, negli anni 60 poi Franco Cerri inizierà anche a capeggiare delle formazioni, lui da leader, e a incidere diversi dischi per una discografia costituita in buona parte anche da album pressoché irreperibili, che poi solo di recente sono stati ristampati. E allora noi iniziamo con Franco Cerri, leader, dal 1963, quando c'era anche in Italia la moda, arrivò dal Brasile la moda della bossa nova. Bossa nova era proprio il titolo di questo suo album uscito per la Columbia Records. E questa che ci ascoltiamo è Blues Bossa Nova. Siamo al 1964, quando uscirà l'album dal titolo Franco Cerri. Noi abbiamo scelto questa Kit Car in una formazione che vede anche diversi nomi che poi l'accompagneranno per tutto il resto della carriera. Parliamo di Enrico Intra al piano, così come Renato Sellani, Gianni Basso al sax tenore, Oscar Valdembrini alla tromba. Thank you. Diciamo che in quegli anni anche la televisione dava spazio alla musica e aveva bisogno anche di cose nuove da trasmettere, cose di jam, di situazioni nuove in cui ospitare musicisti. Eh sì, lui oltre che uno splendido musicista fu anche un meraviglioso divulgatore. Carriera che poi iniziò televisiva, che iniziò nel 1954 con una breve parentesi come attore e ballerino, lavorando con Renato Raschel nella commedia musicale Tobia, Candida Spia. E poi negli anni 60 la Rai lo chiamò come conduttore di alcuni programmi divulgativi sul jazz per la appunto neonata televisione italiana. Ricordiamo Di Jazz in Jazz, Jazz Primo Amore, Il Jazz in Italia e Il Jazz in Europa, e ancora Fine Serata con Franco Cerri, che tra l'altro vi invitiamo a vedere su YouTube, perché ci sono le puntate intere con ospiti come appunto Chet Baker, Jerry Mulligan, Dizzy Gillespie, ed erano davvero delle puntate davvero ricche di aneddoti. Che poi tra l'altro mi pare che si svolgessero a casa sua, quindi c'era il salotto, era lo studio, insomma era una situazione molto informale comunque. Sì, ovviamente era un po' ricreata tutta quella situazione e appunto tutti questi vari musicisti suonavano con la band di Franco Cerri. Possiamo dire che sono più di 750 le sue presenze televisive, e tra l'altro fu anche un nostro collega, perché numerosi erano anche i programmi radiofonici da lui condotti. Allora ci andiamo ad ascoltare questa I'm gonna sit right down and write myself a letter, come a dire mi seggo qua e mi scrivo una lettera da solo. Chi ha cantato anche questa canzone? C'è una versione di Gregory Isaac che forse adesso sentendola riconoscerai, dall'album La sera a casa con te del 1965. Questa non è del buon Franco, è uno standard, per questo il Kurt Rula l'ha ricantata. Ottobre del 1966 il buon Franco Cerri debuttò anche negli Stati Uniti, esibendosi al Lincoln Center di New York e ottenendo tra l'altro notevoli consensi anche presso i jazzisti americani. Allora, quello che ci andiamo ad ascoltare adesso è Quando il rapporto umano. Si trovò insieme a tale che veniva da Cofuma, che durante il viaggio perse un'occasione eccezionale, perché il temperamento gli impediva i contatti. Poi non era grasso, non magro, però non era altissimo né piccolo, ma quando sorrideva si vedevano i denti sopra e sotto, pochi davvero, forse due. questo fascinoso racconto che c'è tra e lo vorremmo continuare per poterli spiegare a quali rinunce è costretto a operare. Fu l'uomo da temperamento vulnerabile, prezile, ma non sarà facile, proprio perché a un certo punto mentre ci spiegava i fatti ci rendemmo conto che parlava un'altra lingua. E in conclusione, certamente serveremo un bel ricordo di lui, senza dubbio serveremo un bel ricordo di voi, e speriamo voi serviate un bel ricordo di noi. Baba diva, baba duba. Si arriva anche negli anni 70, quando Franco Cerri sarà anche un ottimo arrangiatore e scopritore di giovani talenti, come in questo caso che vede la batteria di Gianni Cazzola, le percussioni di Walter Martino, il piano di Nando De Luca, il sassofono tenore e il clarinetto di Gianluigi Trovesi e poi il basso elettrico di Stefano Cerri, suo figlio, che era davvero un grandissimo talento e poi però sfortunatissimo, morì ancora giovane, e appunto Franco Cerri alla chitarra elettrica. Quella che ci ascoltiamo è Vacante. Anche i titoli sono molto particolari delle sue canzoni, E rispecchiano anche la sua innata ironia. Thank you. E così arriviamo al 1977, quando uscirà Franco Cherry Jazz per l'etichetta Dire. In un quartetto che vede le chitarre di Angelo Arienti e Franco Cherry, il contrabbasso di Giorgio Azzolini e la batteria di Tullio De Piscopo. Hai capito? E quella che ci andiamo ad ascoltare è? Ci ascolteremo due brani da questo disco. Il primo è Quartettino. Virtuosismi mai fini a se stessi, ma comunque Franco Cherry diventava via via sempre di più un riferimento chitarristico, e così per i fratelli di Fabbri Editori realizzò, in collaborazione con il chitarrista classico Mario Gangi, un corso di 60 lezioni che fu usato e ristampato per ben 4 edizioni. E allora, a proposito di titoli particolari, questa è Sea Comment. Thank you. nel 1978, a distanza di 30 anni, c'è di nuovo l'unione con Gorni Kramer in occasione dell'incisione del disco Noi Duero. Una formazione importante che vede ancora Stefano Cerri al contrabbasso, alla batteria Giancarlo Pillò, all'accordion e alla voce appunto Gorni Kramer ancora, al piano Santino Palumbo e Franco Cerri alla chitarra elettrica e alla voce, e soprattutto al clarinetto e alla voce Tony Scott, il grande musicista che quest'anno tra l'altro ricorre il centenario dalla sua nascita, e direi che possiamo anche omaggiarlo in una puntata. Assolutamente sì, e tra l'altro il nome invece di questo brano è in italiano, un italianissimo, un italiano proprio anni 70, Crapa Pelata. Crapa pelata lo fai tu te, grida minchia sopra me, oh, il sopra te fanno affrittare, grida minchia crapa pelata, oh, crapa pelata la fai tu te, grida minchia sopra te, il sopra te fanno affrittare, grida minchia crapa pelata, crapa pelata la fai tu te, grida minchia sopra te, oh, crapa pelata, crapa pelata, crapa pelata, crapa pelata, crapa pelata. Following in love with love. qui ancora l'incontro con un suo compagno di lunga data. È il 1988, l'album è Take the Train e vede appunto Franco Cerri in combination con il sassofonista Gianni Basso, in un trio con loro il contrabbasso è di Luciano Milanese. Diciamo in quegli anni forse per i musicisti era differente campare, ma ci sono delle cose che uniscono tutti quelli che fanno musica di lavoro e una di queste è quella proprio di insegnare. Eh sì, in questi anni tra l'altro Franco Cerri si è proposto anche come organizzatore e poi appunto intensificando anche l'attività didattica in seno all'Associazione Culturale Musica Oggi, fondata con il pianista Enrico Intra e appunto che dirigeva i corsi, i civici corsi di jazz di Milano e che ha avuto anche all'attivo molteplici rassegne concertistiche. Sì, questo è uno degli aspetti che accomuna un po' tutti i musicisti, almeno con cui ho il piacere di collaborare, il fatto di insegnare, perché poi tra l'altro per imparare o si gioca o si insegna. Diceva Frank, appunto, diceva Intra, abbiamo suonato insieme per mezzo secolo, abitando insieme questo mondo del suono, cui mancherà un ottimo docente di chitarra, perché Franco riusciva a comunicare tutta la sua esperienza e personalità d'uomo. Era fortunato chi lo frequentava e quindi anche gli studenti. Allora ha scritto tutto attaccato, c'è il rimedio. Thank you. Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente calla. E adesso passiamo a un live registrato proprio in compagnia di Enrico Intra alla Casa del Jazz qui a Roma il 15 marzo del 2007. Eh sì, perché come i fedeli ascoltatori di Attica Blues sanno, quando facciamo una monografia inseriamo sempre almeno un brano live. E allora, per presentare proprio questa serata, Franco Cerri ha scritto: ho 81 anni e da 62 suono la chitarra professionalmente, o almeno ci provo, ma ancora oggi, prima di un concerto, di una seduta di registrazione, mi emoziono e ho paura di non farcela. In fondo è bello così. Infatti, quando supero l'emozione e mi lascio andare alla musica, mi rendo conto di quanto sia fortunato, e ho fatto e faccio proprio quello che volevo fare. È una sensazione molto bella e preziosa. Da questo concerto noi abbiamo scelto la traccia di chiusura che porta la firma proprio di Django Reinhardt, New Age. Enrico Intra e Franco Cerri. Questo lo dedichiamo a Flavia, che ci ascolta con le sue cuffiette dall'ufficio cercando di far quadrare i suoi conti. Ci riuscirà? Allora, anche questa puntata di Attica Blues volge al termine, ci rimane solamente il tempo per un ultimo brano. Da un disco più recente del 2014, Barbershop era il titolo, ed è Riccardo Fioravanti al contrabbasso, Stefano Baglioni alla batteria, Dado Moroni al piano e ovviamente Franco Cerri alla chitarra. Noi ci ascoltiamo Beautiful Friendship. se vi state sintonizzando solamente ora o più in generale, se volete ascoltare il podcast di questa puntata come di una delle tante altre puntate di Attica Blues, troverete il podcast appunto sul meraviglioso sito della radio www.ondarossa.info. Trovarci è facile, basta andare su palinsesto, andare a giovedì e dalle 4 alle 5 c'è Attica Blues. Ci cliccate sopra, si apre la nostra pagina con tutti i podcast corredati da un'immagine, una breve descrizione e la scaletta della puntata. E come di consueto, in chiusura vi ricordiamo anche le nostre pagine social, ci trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram e anche su Spotify, dove invece è presente una ricchissima playlist che più, con la musica che più rappresenta questa trasmissione. In tutti i casi, basta cercare Attica Blues e ci troverete facilmente. Così noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 4 alle 5, sempre su Radio Onda Rossa. E sostenete questa piccola, grande radio.